allora capisti al dire che mi dà. Dite, dite, dite, vedeste ancora un padre ed una figlia. Perfida, alba di lei, perfida, alba di lei. Misero par di me, alba di me, alba di me. Dove a sedarti allora, capisti al dire cigna? Dite, vedeste ancora un padre ed una figlia? Perfida, alba di lei, perfida, alba di lei. Misero par di me, misero par di me, alba di me. Perfida figlia, perfida figlia. Misero, misero padre, dite vedeste mai un padre ed una figlia? Perfida par di lei. Perfida par di lei. Misero al par di me, al par di me, al par di me. L'ira soffrir sapremi, ogni destini diranno, ogni destini diranno, a questo solo affanno costante il corone, no, no, no, no, non è costante. Capisti, capisti al dire figlia, dite, dite, dite, vedeste ancora un padre ed una figlia. Perfida al par di lei, perfida al par di lei, misero al par di me, al par di me, al par di me. Dovete darti allora, capisti al dire figlia, dite, vedeste ancora un padre ed una figlia. Perfida, alba di lei, perfida, alba di lei, misero al par di me, misero al par di me, alba di me. Perfida figlia, perfida figlia, misero, misero padre, dite mai un padre e una figlia. Perfida par di lei, perfida par di lei, misero par di me, al par di me, al par di me.